accese intorno a me, rendono i miei giorni immobili, i miei giorni l'indifferenza copre già i colori accesi nella realtà, e nei miei questi giorni.